1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qua, sono le 7:20 minuti con un po' di consueto ritardo. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Si chiude la 98esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. I telefoni della regia vanno? No. Alcuni sì, alcuni no. Va bene, ma è venerdì. È venerdì e c'è l'eclissi di sole. State tranquilli, non è che vi guardate tutti oggi il sole così, oh che bella l'eclissi di sole, e poi vi ritrovate ciechi, state attenti, e mi raccomando. Va bene, allora oggi parleremo di Lupi, Lupi che si è dimesso, Lupi che parlava del lavoro del figlio, ma non è che così fanno tutti un po' gli italiani? Popolo di raccomandate, di raccomandatori. Ne parleremo con Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, avremo Piero Stellino, avremo Clemente Mastella. Parleremo di questo dalle 8:15, ora i giornali. In questo venerdì 20 marzo i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre sull'effetto Fed sui cambi, riparte il super dollaro, mentre le due notizie che rimangono principali sui giornali sono l'ISIS, l'attacco in Tunisia e appunto la vicenda di Lupi. L'ISIS minaccia, è solo l'inizio, questo è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, mentre per Repubblica Lupi l'addio in TV, ma il Premier non mi ha difeso. Così anche il Messaggero, la resa di Lupi, mi dimetto interim a Renzi, ipotesi rimpasto. Anche per il Giornale, eseguita la sentenza di Renzi. La Stampa, Lupi, me ne vado, ma lasciate in pace la mia famiglia. Torna l'ISIS e torna la vicenda internazionale su Libero, volevano colpire proprio noi, questo è il titolo di prima pagina con le rivendicazioni dell'ISIS. Il Fatto Quotidiano invece: derubano gli alluvionati per le maxi opere inutili. Avvenire infine, prima di leggere qualche notizia, l'ISIS rivendica Tunisi, grida no. Per la verità loro titolano l'IS, perché c'è chi lo chiama Stato Islamico semplicemente, quindi IS in sigla. Allora cari ascoltatori, da che cosa voglio iniziare a leggere? Beh, sapete che nei giorni scorsi si è parlato dell'accorpamento dei troppi corpi di polizia, 5, in particolare dell'annessione dei forestali al corpo della Polizia di Stato. Ebbene, Libero racconta, pagina 12, questa sarebbe da mani sul volante subito, subito da mani sul volante, racconta Libero che grazie all'emendamento dell'Alto Atesino, deputato dell'SVP Carl Zeller, saranno esclusi da questo accorpamento le regioni a statuto speciale, tipo il Trentino Alto Adige per l'appunto, tipo la Sicilia per esempio, l'esercito dei forestali siciliani salvato dagli Alto Atesini. Paolo Emilio Russo racconta la vicenda dell'incredibile. È un senatore nato a Merano, madrelingua tedesco, il nuovo angelo custode dei forestali siciliani. Carl Zeller, eletto con l'SVP, costringe il governo a fare marcia indietro sulla cancellazione del corpo forestale dello Stato e a lasciare tutto com'è nelle regioni a statuto speciale. Fattaccio che avviene giovedì in Senato. In discussione a Palazzo Madama c'è la legge delega sulla pubblica amministrazione. L'articolo 7 prevede l'eliminazione della forestale, il riassorbimento del corpo in un dipartimento della Polizia di Stato. Ebbene, l'intervento prevede questo emendamento numero 7117 che cancella l'accorpamento ed esclude dall'applicazione della nuova disciplina le regioni a statuto speciale oltre le province di Trento e Bolzano. E voilà, fatta la legge, trovato l'inganno, si potrebbe dire. Il dato di fatto è che c'è questo emendamento e viva! A proposito di notizie, certo che non fanno molto piacere, succede invece che tra poco è Pasqua e a Firenze che cosa piazzano agli Uffizi, i dipendenti degli Uffizi, per il 4 sabato e domenica 5 aprile, giorno di punta del turismo a Firenze? Un bello sciopero. con gli Uffizi chiusi nel fine settimana di Pasqua. Titola il Corriere: lo sciopero che chiude gli Uffizi nel fine settimana di Pasqua, chiusi, sprangati come prigioni inaccessibili davanti a migliaia di turisti increduli, furibondi. Potrebbe essere questo lo scenario di Pasqua per i principali musei statali di Firenze, gli Uffizi, la Galleria dell'Accademia, Palazzo Pitti compresi. Sciopereremo sabato 4 e domenica 5 aprile, annunciano i 400 lavoratori di Opera Laboratori Fiorentini, la società privata che si occupa dei servizi, dalla biglietteria al guardaroba, al bookshop, in una quindicina di musei statali della città. Sciopero programmato da CGIL e UIL con largo anticipo, ma che provocherebbe disagi fortissimi al capoluogo toscano e all'esercito di vacanzieri in arrivo in ogni parte del mondo per le feste di Pasqua. Per il sindaco Nardella è un autogol clamoroso. Staremo a vedere se si riesce a scongiurare quella che certamente sarebbe una figura che vai a spiegare a un turista giapponese le rivendicazioni sindacali della CGIL che portano a chiudere gli Uffizi a Pasqua. Ma staremo a vedere, c'è un po' di tempo per scongiurare questa figuraccia. Andiamo però a quello che è nettamente l'articolo che ci fa pensare di questa giornata: il premio Mani sul Volante. E tra l'altro è iniziata già, io li volevo tenere mani sul microfono visti i telefoni che non andavano, ma Mani sul Volante, il premio oggi va a Corrado Zunino sul quotidiano Repubblica, che racconta, pagina 27, è una vicenda legata alla scuola. Sapete che nella scuola ci sono moltissimi, e il Ministero ora vuole vederci chiaro, moltissimi dipendenti che godono dei diritti della legge 104, quella che permette di assistere un disabile a casa. Sentite qui Corrado Zunino: la supplente di matematica Claudia Sortino è stato l'ultimo esempio plateale di abuso del permesso 104, che consente ai docenti di assentarsi 3 giorni al mese per curare e assistere parenti malati. Era una tangheira mai doma ed è andata oltre. Gli agenti del commissariato di Palermo hanno scoperto che i permessi per assistere il padre invalido le servivano invece per fare le tournée europee di tango! Di tango! E metteva tutto su Facebook, le foto. Ma il ministero vuole vederci chiaro anche in altri casi. All'ISIS Caselli di Napoli, 43 insegnanti su 72 godono della legge 104, 43 su 72, più della metà. Nella provincia di Caserta il primato tocca al Cavour di Marcianise, 1 su 3 ha problemi clinici e si assenta. Il preside dice è un'abitudine malsana, ma arrivano col certificato medico e tac, non possiamo fare niente. E allora ad Agrigento, ne abbiamo parlato, l'epicentro dello scandalo dal Santi Bivona di Menfi, 40% di assenti con permesse, è nata l'ispezione del sottosegretario Faraone. Ma certo, il caso emblematico è la tangheira che andava a fare le tournée europee di tango con i permessi della legge 104. Parole di che cazzo? Ma fatemi un piacere, dai, su. Ciao Milan, che te mattino mi dà fuoco. Dai, una bella eclissi di sole che mi dà fuoco. Va bene, caro ascoltatore, caro Angelino, il nostro contadino di Terni, evviva. Allora, certamente il tema della Tunisia è ancora in primo piano. Beh, la rivendicazione dell'ISIS, soprattutto questa foto che circola su Twitter con la rivendicazione dell'ISIS, la foto di una delle vittime con tanto di croce sopra, a dire abbiamo schiacciato un crociato italiano. Ma che è un crociato italiano? Questo povero pensionato che, anzi no, un autista di autobus che era lì a fare una vacanza ed è stato ucciso da questi maledetti schifosi. Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera firma un editoriale in prima pagina: noi assediati e troppo timidi. Destabilizzare tutti gli assetti politico-statali del mondo arabo, impadronirsi di quell'immenso spazio geopolitico instaurandovi un potere ispirato all'islamismo radicale, da lì muovere a uno scontro con l'Occidente, preliminarmente messo sulla difensiva e impaurito dall'azione di nuclei terroristici reclutati nelle comunità musulmane al suo interno. Davvero si corre troppo con la fantasia attribuendo un disegno del genere alla galassia del Jihad che mercoledì a Tunisi ha compiuto l'ennesima impresa sanguinaria? Davvero significa questo dar corpo a fantasmi? Bisogna vedere. Chi l'avrebbe detto nel gennaio del 1933 che quel tizio esagitato appena nominato cancelliere in Germania avrebbe effettivamente cercato di realizzare i suoi fantastici propositi di sterminio, mettendo a ferro e fuoco il mondo? Eppure allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale mancavano neppure 7 anni. Il messaggio che viene da Tunisi, scrive Galli della Loggia, è chiaro. Per il nostro continente si avvicina una prova decisiva. Siria, Libia, Tunisia, la sponda meridionale del Mediterraneo, il confine marittimo dell'Unione. Come non accorgersi che prima che agli Stati Uniti è a lei, all'Unione, cioè a noi, che è rivolta la sfida islamista. Per far fronte alla feroce determinazione dell'islamismo radicale, alla sua capacità di penetrazione, la politica deve innanzitutto prepararsi all'impiego della forza. La si chiami come si vuole per non turbare i nostri pudori lessicali, operazione di polizia internazionale, missione di pace o che altro. L'importante è capirsi sulla sostanza, così come è necessario che l'Europa si convinca a dire con chiarezza ad Arabia Saudita, Qatar e qualche altra monarchia del Golfo che il loro doppio gioco non può continuare a lungo, che essi non possono con una mano fare lauti affari con l'Occidente e con l'altra finanziare chi uccide a sangue freddo i suoi cittadini. Così Galli della Loggia oggi sul Corriere della Sera. Tra l'altro proprio sul Corriere Guido Limpio racconta di questo comando terrorista addestratosi in Libia e poi ha atteso l'ordine. Probabilmente sono addestrati a Derna in Libia e poi sono entrati in azione una volta che è arrivato il segnale. Certo, cosa c'è da dire ora quando si scopre che al Museo del Bardo c'era solo una guardia armata? Una guardia. Fa capire che certamente anche i livelli di sicurezza sono stati bassissimi. Non si può neanche pensare di militarizzare tutto il mondo, visto che sono arrivati anche a Parigi. Però certamente le reazioni del giorno dopo fanno un po' specie. Ora anche le crociere e quindi le grandi compagnie che muovono le navi da crociere, migliaia di turisti nel mondo, prendono le contromisure. Come scrive Repubblica, ora anche il business delle crociere cambia rotta. Genova, racconta Massimo Minella su Repubblica, pagina 14, la mappa delle crociere a rischio è un qualcosa che quasi non si riesce a immaginare, eppure con questo che il mercato che non conosce crisi, che ha saputo resistere a guerre e recessione, che ha pure digerito senza troppa ansia la tragedia della Concordia, deve fare i conti. In realtà i focolai grandi e piccoli di tensione hanno già costretto le compagnie armatoriali a rivedere i propri piani, ma adesso la tragedia di Tunisi impone un ulteriore pesante cambio di rotta, proprio a cominciare da quel Mediterraneo che paradossalmente rappresenta ormai il primo mercato al mondo, cresciuto più dei Caraibi grazie a un prodotto che ha sbaragliato la concorrenza turistica. La Tunisia da questo momento è che per chissà quanto ancora è cancellata dalla geografia del business delle crociere. Un danno devastante per l'economia del paese, provocato dalla contemporanea rinuncia annunciata ieri delle prime due compagnie d'Europa, Costa e MSC, che nel porto di Lagunetta avevano mercoledì le navi Fascinosa e Splendida. A questo punto nella sponda sud del Mediterraneo resiste saldamente come navi da crociere solo il Marocco. La Libia è stata cancellata da anni, l'Algeria non è ancora presa in considerazione, fortemente critica la situazione dell'Egitto che con Alessandria apre ai suoi croceristi le porte per le piramidi e con Port Said introduce sulla rotta del Mar Rosso, delicata anche la situazione in Israele, il Libano è uscito di scena e allora rimane il Marocco, ma certo il business delle crociere è molto molto in crisi ora dopo questa vicenda. Vacanze da paura è anche il titolo di Libero a pagina 6. Da inizio anno già 20 attentati con le compagnie croceriste ora che sono in fuga dal Maghreb. In Italia invece che si fa per fronteggiare tutto questo? Beh, racconta Repubblica, c'è una lista con 3.000 nomi, il bacino delle reclute nel dossier degli 007 italiani. Paolo Berizzi racconta, pagina 17, la mappatura con l'elenco degli obiettivi più a rischio: Fiumicino, Malpensa, la Cappella Sistina, gli Uffizi, i porti di Bari, Napoli, le stazioni ferroviarie dell'alta velocità, insomma un po' tutto, i luoghi di culto, quelli di interesse turistico. E poi c'è questa lista. Gli 007 impegnati sul fronte anti-ISIS lo chiamano il listino. Ci sono circa 3.000 nomi con una percentuale di negatività approssimabile a un quasi rassicurante 98%, cioè significa zero interesse investigativo nel 98% dei casi di queste persone in lista. Cos'è questo listino degli 007? Niente di etnico, niente di lombrosiano, spiega una fonte dell'intelligence. Sono nomi di dipendenti, collaboratori di società, compagnie di trasporti, gestione di porti, aeroporti, persone che in qualche modo potrebbero offrire, anche inconsapevolmente, informazioni utili a soggetti collegati all'ISIS di passaggio in Italia per pianificare azioni terroristiche. Questo è il monitoraggio delle forze di sicurezza. Vabbè, l'altra notizia più importante, la seconda notizia più importante è come ieri, no? Tunisi e la politica italiana con la vicenda Lupi, che noi affronteremo dalle 8:15. Allora, Lupi ieri è andato in Parlamento, cioè a Porta a Porta, e ha annunciato le dimissioni. Scusate la battuta, ma molti l'hanno notata sui giornali, il giornale dedica una pagina proprio: schiaffo al Parlamento, le dimissioni di Lupi nel salotto TV di Vespa. Spesso viene definita la terza camera della Repubblica Italiana. È andato a Porta a Porta e ha detto: domani, cioè oggi, dopo l'informativa stamattina alla Camera, andrò a rassegnare le dimissioni dal Presidente della Repubblica Mattarella. La giornata di Lupi è stata una giornata iniziata con una corsa, e quando va a correre si chiarisce la mente, fanno sapere i suoi collaboratori. Finita la corsa, è andato dalla moglie, ha detto: mi dimetto. Ecco qua, la corsa Villa Borghese, poi la scelta: stanno braccando i miei familiari, devo difenderli. Pagina 15 del Corriere, Elisabetta Soglio racconta la giornata di Lupi. Uno che da sempre si autodefinisce ironicamente un terrone di Baggio. Baggio è un quartiere di Milano, mettendo insieme le sue origini abruzzesi e la nascita in uno dei quartieri più popolari di Milano. Ha preso i giornali, ha riletto i nomi del figlio Luca, della moglie Emanuela, è andato a correre, poi tornando annuncia alla moglie: mi dimetto. Mi hanno intercettato per 2 anni, ci sono 27.000 pagine di verbali che arrivano ai giornalisti prima che a me, ogni cosa potrebbe essere letta in modo distorto, nonostante la moglie gli abbia detto: no, non stai facendo nulla di male. Lui dice: è uno stillicidio, ora basta. Poi va da Renzi, lo incontra con Alfano, e qui salto su Repubblica, perché incontrando Alfano la giornata è raccontata da Repubblica, pagina 2 e 3, in un retroscena. Pare che Renzi abbia detto ad Alfano: apprezza il fatto che io non abbia detto nulla, tanto che se avessi parlato ti avrei costretto alle dimissioni. E addirittura racconta nel retroscena di Repubblica, pagina 2 e 3, che Lupi a quel punto reagisce dicendo: quasi quasi si aspettava un mio ringraziamento, una cosa clamorosa. Poi va ad Alfano e si sfoga: Renzi è proprio un democristiano. Così avrebbe detto Lupi, che poi decide di andare da Vespa, anche perché le intercettazioni continuano. Sentite qui l'intercettazione intanto di quando chiama in calza per dire: ti mando mio figlio, no? Quindi proprio la raccomandazione, o comunque la segnalazione. Ma poi racconta Repubblica i vestiti gratis al figlio pagati dall'imprenditore Cavallo e Maurizio Lupi, che anche sbotta in una telefonata dicendo: ma insomma, ma questo sarto, sto sarto fa schifo, cazzo, la giacca larga. Cioè si lamentava anche dei vestiti comprati al figlio da questo imprenditore in una telefonata sfogo con l'imprenditore, che dice: ma ditegli a Maurizio qual è il problema, se è stretto il pantalone, la giacca, cosa deve fare il sarto? E Lupi però dice che questo sarto non sa lavorare. Oh, voi dovete sapere che c'è Bartezzaghi su Repubblica che fa sempre degli straordinari anagrammi. Oggi l'anagramma di pagina 2, molto molto emblematico, è questo: l'ex ministro Lupi, cioè mi spunti il Rolex. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. colgo l'occasione, tanti anni fa mi avete regalato una maglietta di Radio 24. Sì, l'hai denunciata. Però. Va bene. Vorrei lamentarmi. Non ne sarai posso forse ingrassato? Sarai forse ingrassato? Chi lo sa? Come ti permetti? No, comunque, dai, è venerdì e meno male che c'è l'Inter. Dai, su, avanti. Venerdì e noi ci siamo dimessi ieri sera, ecco. dalla Champions. Vabbè, però. Dalla Champions, dai, sono tutta la gara, dalla competizione. Sì, dall'Europa League, stavo sognando ancora, sì, perdonami. Sì. Però vabbè, è bello sognare, no, è stato bello, diciamo, è stato meglio conoscersi che non essersi mai incontrati, parafrasando un po' di André, sì. Chi non ha mai partecipato, insomma, come fa a capire il nostro rammarico? Ti voglio dire però che la lotta all'evasione, intanto che noi ci eclissavamo dalla Europa League, è andata meglino, lo riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, sono riusciti a recuperare, si stima, intorno a un 15% dell'evaso, che vabbè, non è poco, non è molto, vabbè. Che dire, è un po' come la maglietta di Radio 24, mi sta un po' stretta, non è che si può fare, vabbè. Dopodiché ti vorrei anche confermare che le richieste delle banche italiane per quanto riguarda il prestiti mirati, prestiti che devono essere poi indirizzati a imprese e famiglie, sono state molto alte, 32 miliardi, lo scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, e devi sapere che questo potrebbe tradursi poi in una buona notizia. Sono contento che tu abbia finalmente ritrovato in mezzo ai giornali il decreto sul TFR, TFR in busta, vedi? Paga. Vedi? Ecco, potevi anche dirmelo però, che l'avevi ritrovato. Comunque finalmente è arrivato alla Gazzetta Ufficiale e quindi da aprile si potrà, chi vuole, richiedere il TFR in busta paga. Come fare? Leggi oggi quali pagine, Alessandro, è facile. Norme e tributi? Oh, norme e tributi, certo. In chiusura ti vorrei anche dire, c'è una piccola segnalazione per una sentenza di Cassazione. Casomai tu affittassi un albergo, ecco, se tu prendessi in affitto un albergo, non trasformarlo in una casa chiusa. È giusta causa per interrompere il contratto di locazione. Effettivamente. Volevo chiudere con una nota un pochino più leggera di giurisprudenza, mi sembrava di alleggerimento. E adesso mi eclisso anche io, come ahimè la mia squadra dalle competizioni internazionali, la tua non si è neanche presentata, neanche l'anno prossimo, tranquillo. Ti auguro una serena domenica, specialmente per la tua squadra di calcio. Per la tua squadra, tua. Soprattutto agli ascoltatori, invece questo seriamente. Ciao e traffico! È Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi farci niente. E allora alle 7:49 minuti c'è da dire che ora, visto che Lupi si dimetterà oggi, bisogna capire chi ci sarà al suo posto. Chi ci sarà al suo posto lo scopriremo. Certo, i nomi cominciano a circolare. Luca Lotti, Deborah Serracchiani, Cantone, quello che è a capo dell'anticorruzione. Questo è un nome che circola con intensità, anche se per molti Renzi terrà l'interim fino a questo momento. Oppure quelli del nuovo centrodestra vorrebbero forse Quagliariello, cioè uno dello stesso partito di Lupi, che effettivamente si è dimesso e quindi ha lasciato un posto, e quindi bisogna capire se negli equilibri politici sarà così. Il Giornale invece, con Laura Cesaretti, ha un nome che, ricordate, doveva essere fatto ministro alla giustizia nel momento in cui ci fu il governo, poi molto presumibilmente ci fu il veto del Presidente della Repubblica Napolitano, comunque il nome non era gradito. Nicola Gratteri, che rispunta, magistrato antimafia Reggio Calabria, che ora rispunta, secondo il Giornale, come possibile successore di Lupi. Cioè, secondo il Giornale, Laura Cesaretti racconta a pagina 8, sarà così: Renzi vuole l'interim fino all'avvio di Expo e poi ci sarà Gratteri ministro dopo. Questo staremo ovviamente a vedere. Intanto vogliamo andare ad altre notizie, tanto dalle 8:15 poi parleremo di questo. Se guardiamo agli esteri, aspettate, c'è questa cosa prima da dire. c'è questa cosa da dire su la vicenda Lupi. Sapete che è uscita la vicenda anche di Sposetti, senatore dei DS, ex tesoriere dei DS per l'appunto, anche attualmente è tesoriere dei DS, anche se i DS non ci sono più. Aveva detto, intercettato in una serie di telefonate con tale Burchi, che è indagato in questa vicenda e pare stia collaborando, Burchi si lamenta dicendo: mi fai segnalare troppe persone, divento ormai un ufficio di collocamento. E Sposetti ieri aveva detto: ma io segnalavo giovani disoccupati che avevano bisogno di lavoro. Eccolo qua, Libero, Giacomo Amadori, chi ha segnalato per esempio Sposetti? Massimo Marchignoli, 56 anni, di Bologna, ex deputato ed ex sindaco di Castel del Rio e di Imola. Insomma, a lui il partito non ha dato poco, ma c'è questa telefonata. Ti ricordi di quel Marchignoli? Dice Sposetti a Burchi. E Burchi: lo facciamo il prossimo anno, le prime nomine che mi arrivano lo metto in una società. Queste sono le telefonate, quindi dice: beh, insomma, non proprio dei giovani disoccupati, questo almeno a vedere quello che scrive Libero da questa intercettazione. Oh, parliamo invece di cose internazionali negli ultimi due minuti. La Grecia è in crisi di liquidità, come racconta Beda Romano molto bene a pagina 3 del Sole 24 Ore. Una situazione economica che appariva ieri particolarmente preoccupante da parte della Grecia alla ricerca disperata di una soluzione alla minacciosa stretta finanziaria. Secondo Repubblica, addirittura con Ettore Livini, sono finiti i soldi per gli stipendi e le pensioni ad Atene. E il fatto che si riescano ancora a pagare è perché ci sono o la finanza creativa, si legasi, si gratta al fondo del barile, oppure perché la liquidità girata dalla BCE alle banche greche per sottoscrivere i titoli di Stato in scadenza e pagare gli interessi sul debito vengono utilizzati appunto per pagare stipendi e pensioni. Ma, racconta Ettore Livini su Repubblica, o si trovano 3 miliardi subito o la Grecia rischia davvero il default, cioè rischia di non pagare stipendi pubblici e pensioni. E questo, sappiamo, è il primo passo per la, come dire, anche rivolta civile, se vogliamo. A proposito di esteri, sapete che in Francia c'è un umorista, ecco, definirlo umorista dopo quello che ha detto e che sto per dire, mi scuso con gli ascoltatori, ma è un dato di fatto, è un po' strano. Comunque, umorista, così è definito, tale Nicolas Bedeau, che in un'intervista ha definito Marine Le Pen una baldracca fascista. Per questo è stato però assolto dal reato di diffamazione. Cioè, ovviamente Marine Le Pen l'ha chiesto di una querela, l'ha querelato per diffamazione. Baldracca fascista, insultare la Le Pen per i giudici si può. Sul Libero, Mauro Zanon: da mercoledì in Francia ufficialmente permesso e senza alcun rischio di incappare in guai penali trattare Marine Le Pen come una, l'abbiamo detto già due volte, baldracca fascisteggiante, per la verità la traduzione è corretta. Questo succede in Francia. Vabbè, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi va una pagina del Corriere della Sera, ma è più che altro il titolo. Io sono rimasto inchiodato 10 minuti a questo titolo, non riuscivo a uscirne questa mattina. La capacità dei nuovi androidi, i robot, lo studio dei robot di leggere le nostre emozioni. E il titolo è questo: ci serve davvero l'affetto dei robot? Ma chi se ne frega!